c'è un garage lì enorme a coperto e avevo visto questa fila di vespe, dai. Però guarda, io adesso occhio croce, ne ho contate una quarantina, poi le altre non so dove erano, ti ripeto, ho visto solo quella porzione lì di deposito, adesso non l'ho mai visto. Ah, tu sei entrato ovviamente, dove ci sono i mezzi? No, io sto parlando sotto, hai visto quanto è grande tutto il piazzalone dove ci sono i mezzi anche dei vigili del fuoco, qualche mezzo in disuso, eccetera. Sotto lì, per tutta la grandezza di quello lì, ci sono le officine sotto, ma saranno, io penso, non meno di 4-5 mila metri quadri di coperto sotto, di lì sotto, cosa c'erano di moto? Ma io sto parlando, cacchio, quanti, non meno di 35 anni fa, quando c'era il periodo che sequestravano le vespe, ma ne sequestravano al minimo una quindicina al giorno, tu fatti il conto, 2, 3, 4 anni sequestrando roba, alla fine di cosa? Se ti pagavi la contravvenzione e più ti facevi la revisione, la maggior parte non le ritirava, ma non so quanti amici miei l'hanno lasciata perché costava troppo. E poi una ventina d'anni fa avevo visto, avevano sequestrato due moto da competizione Suzuki gialli, nuovi, senza tagli, era moto da cross da competizione, erano rimaste di lì per qualche periodo, poi sicuramente le hanno schiacciate, ma erano nuove, fiammanti. Tu hai avuto la possibilità? No, io non, mai entrato a quelli fuori là. Io mi devo spostare per un attimo, casomai ci sentiamo dopo, dai, che sennò sorgono problemi, dai, al limite ci sentiamo dopo, vabbè, mi devo spostare, ok? E anche io entrato il sacco, dai, faccio una chiamata qua sul 10, un attimino devo andare via, dai, ci sentiamo in altre occasioni, Gianni, il piacere della chiacchierata, buon proseguo, dai, buon tutto, vediamo se Claudio saluta. Eia, lavorosamente, ciao già, ci sentiamo magari più tardi se coincide, se no le prossime, vai Ro. Ok, adesso faccio una chiamata sul 10 perché anche io adesso devo andare via. Se sono i 10 che vuole entrare, se no QR ti da parte via. Via, come dai bocco, dicevo. Ma no, io sono qua, a sospetto i fornelli. Mi rilascio un attimino e poi vediamo un po', dai. Già sono qua, vabbè, ok? E oggi c'è la partita, noi c'è una bella partita, Lazio Bayern Monaco, c'è alle 9. Alle 9? All'1? A canale 5 lo danno, e domani c'è Atalanta Real Madrid, anche quella è una bella partita. Ieri c'era la Juve ma non c'era Azzurra, ragazzi, troppo differenza di valori c'era. Oh, il grottone, ma intanto c'è terza da sola, vai. Ha superato la Roma, tieni conto che doveva recuperare la partita col Napoli, se vince anche quella col Napoli magari fa un buon risultato anche quest'anno. Per il primo anno di allenatore, Pirlo scolamentare, ha già vinto la Coppa delle Coppe, c'è la finale di Coppa Italia, è ancora in corsa in Champions, è terza in campionato, va bene, dai. Meglio così, se no era troppo monotono il campionato, 9 anni consecutivi di scudetto, anche gli altri meritano, perché meritano, quindi se fa il suo secondo o terzo posto è giusto così. L'importante è che vada avanti in Champions, perché gli altri sono tutte, insomma, vabbè, l'Inter è fuori, l'Inter è favorita anche, io spero che vinca il campionato veramente, perché è favorita quest'anno, cioè sta facendo una partita alla settimana, io me ne fenderei, capito? Tutte le altre sono impegnate in Coppa, in Champions, quindi capito? Lo so l'Inter, io guardo che cosa mi dispiace, non per l'Inter, ma chi sa, l'allenatore che è un antipaticone, un presuntuoso, si lamenta sempre, polemico, cioè si stesse zitto, perché è un buon allenatore, nessuno ne dice il contrario, ma statene zitto e prendi quello che ti esce, quando lui fa dei favori sta zitto, alla minima fesseria lo senti lamentarsi, è quello che non mi piace. Così dal presidente del Napoli, stanno facendo a pezzi a Gattuso, ma dove vuoi andare con quella squadra, gli mancano 5 attaccanti, sta giocando con uno mezzo infortunato che non è neanche un centravanti e ti diverti a dire cosa Gattuso. Quello ce l'ha sempre avuto il vizio della Venti. Ma Conte, così era con la Juve, non gli andava mai bene niente, sfianca i giocatori, ma ti ripeto, quest'anno è favorito perché ha intanto il passo sia della Juve che delle altre squadre, ma soprattutto della Juve che ha un allenatore nuovo, quindi si sta formando di nuovo la squadra, va bene così. Però cazzo, sei favorito, stai facendo una partita alla settimana, sei stato eliminato dalla Coppa Italia, dalla Champions, da tutto, giocati bene il campionato e cagliati, cosa stai lì sempre a protestare? L'altro giorno ha rischiato, se non ricordo con chi era, non nel derby, la partita che non so con chi si è attaccato, ha rischiato di essere espulso almeno per 3-4 giornate, invece ne hanno dato una giornata solo, quindi deve fare da bravo. Vabbè. A parte quello, l'Inter merita quest'anno di vincere il campionato perché è una squadra ottima, lo sta dimostrando, l'ha dimostrato, l'allenatore c'è, ma soprattutto è favorita perché gioca una volta alla settimana, è molto riposata, capito? Quindi approfittane, gioca a dirlo il campionato, ma caglia di gas, tappete la bocca che si allena loro. Sì, vabbè, io adesso vado via, dai, poi magari se più tardi una giugana, ma sarà difficile, dai. Ci sentiamo, sono quando vuoi, già lo sai dove trovarmi. Ciao ciao, correti dalla parte mia, è buona cucinata se sei seguito in ende. Ehi a Robby, non ti preoccupare, già lo sai che quando ci incontri già passo. Ciao, buona serata, buon tutto. Ciao Claudio, buonasera. Ciao Fra, buonasera. Sto provando a sapere chi è omologato perché con l'altro stavo disturbando Claudio. E io si sente che è omologato. Si sente? Sì, abbastanza, sia di segnale che del radio. Sempre mattesitori anche io, cazzo. Boh, io riesco a comprendere. Non riesco a capire perché disturbi, boh. Perché ciò sei tu sulla centralina, è una merda a dirti di più. Quindi va qui per la centralina o poi va più nuda anche io? Dovrei cambiare la centralina. E cosa vuoi dire, fra? Non so. È un casino e basta. Quando è così, te ne basta vinza che la gara. Vabbè, per il vero. Oh, per il vero. Attenzione 10, c'è qualcuno? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Avanti! Ehi Antonio, ciao, buonasera, me lo do il controllo di radio e segnale, grazie. Ehi K, 9.40 e radio 5. KK, va bene, anda bene. Aspetta, guarda così come va, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Va bene, cioè dove sei? A casa, no? In macchina. Mi sembrava strano. Sei un bel forte, sì. La radio com'è? La bomba già. Andà bene, già va bene. Sto facendo una prova della macchina, dai. Ma vicino a casa sei? Vicino a casa mia sono! Che cazzo? Arrivi più forte di casa tua! Fatti lungo! Già va bene, altro forse perché dove sono, si via l'aria, siamo vicini, dai! Ma la cosa è strana però, Cosa? Che la cosa è molto strana già! Cosa è strana? Sei più forte di casa tua! Com'è possibile? Perché qua sono più su, e in linea d'aria arrivo, proprio si vedono le antenne, là. Certo, ma sei una cosa allucinante, G, 9.40, G. Sei un bel forte, sei già. A me forte mi senti? Bene, bene, Antonio. Veglia, dimmi. C'è forno scala, questa arriva sia a 9.30. KK, anche zona 6. Zona, come dirtelo, la strada nuova che porta al monte. Nessuna, c'è una cosa allucinante, mi gira rivende. Forse perché è molto, molto vicino. Andavi, tanto. KK, vediamo poi se vuole entrare qualcuno, avanti. KK, mi vai preparando a mangiare e preparando. E fra poco vado giù a mangiare, sto ritirando gli attrezzi che stavo controllando una cosa. Adesso metto il marchighe al massimo perché era al minimo, guarda a vedere adesso. È una bomba, Va bene, dai. Gappa, gappa, una bomba mi sta arrivando già. Scappa, dai. Baracchino elaborato. Via, prova si superando di 9.40, non dici? Sempre lì fermo sono, non mi sto muovendo. ho mettato il Mikey Gain, capito? K, e forse i picchi di modulazione sono più alti. K, oh yeah. Va bene, dai. Interessante che ci sentiamo anche. K, ma c'è Brighidda l'apparecchio? No, questo è un altro. No. Questo è un Alan, dai, è un Alan 48. K, c'è una bomba, sì. Questo qui non è mio, dai, è di un amico. K, e già spinge già. Non ho copiato. Vedo che già spinge forte. L'antenna, vabbè, l'antenna è corta, se la vedi è corta a gosto. Hai preso quella là? No, non sono in macchina mia. Compreso? Aggiù compreso, via. Salutamelo. Andare. Saluti D'Antonio. Cappa. Come mai stasera non c'è nessuno? Non lo so. Solitamente a questa era pieno di gente. Non lo so già. Vabbè, D'Anto, io stavo facendo una prova. Adesso lo spengo perché dobbiamo fare altro. Va. Ci sentiamo, tu stammi bene, buona serata. Ehi, a cappa, dai, ci sentiamo. Vai, vado a mangiare. Chi è che fischia? Ciao Antonio. Ciao Fra, buonasera. Quale mi stai ascoltando in quella zona? La bomba. Va bene. A voglia, ti sei sposato a 9.20 e Radio 5. Da pagava, andava dai. Ma faccio gu, sperimentando come ti accusa la antenna a me. Uia, fa finire che questa l'ha giusto. E quale antenna tu? L'altra Ringo, ho scoperto il difetto, Questa io la riparo e lei a dama, capito? Certa rola, ho scoperto il difetto. E che problema c'aveva? Allora, il pezzo dove c'è l'isolatore ne esce, si stacca, si fa di feo, compreso vai. Allora, io lo metto a posto, va giusto, è defuttito, capito? Cava, andava bene. Vabbè, più che altro, sto pilotando, no? Questo 68, e volevo sapere se la radio era pulita, se c'erano problemi. È una bomba, in che zona sei? Adesso sono a Monte Rosello Basso, sono in BM, che sto salendo da... dalle punti. K, 6920 Radio 5. Bene, mi senti tu? Allora, qua 6925, là, diciamo. K, dipende dove sei. Cioè, secondo dove ti sposi ti arriva a fondo scala. Adesso sto rientrando al mio QTH. Sono lì nella zona di Coso, di via Pascoli molto bassa però. K, mi arriva a bomba. Dai, andare. Kappa. Ora vive in occhi. E faccio un cucuro drabbano. Questo lo ripariamo. Che c'è staccato. Ed è futtida. Ed è futtida, non si muove più da voi. Che ti faccio una riparazione, ragazzi, manco 4 accusa. E cosa stai riparando? La Ringo? Quell'altra che c'avevo, perché ho scoperto il difetto. Sta pagando, ho capito. Adesso va bene. Non lo so, la devo ancora bucare e riparare, perché ho scoperto che cosa è, ma sono convinto che dopo va bene. Ehi, anda bene. Cappa, dove sei arrivato fra? Sempre lì fermo, sì. Ho provato a regolare con la centralina, ho diminuito un po' il disturbo, però disturba lo stesso, Rai 1, Rai 2, Rai 3, cioè Rai 3 no, Rai 1, Rai 2 adesso, e tutti gli altri canali ci vedono bene, ma non me l'ha fottuta, poi vedo lo stesso. Capo, quando ho un po' scatto e gli dico, fa una cosa, mica il amplificatore non lo puoi utilizzare, se mi mandi qualcuno, qua siete intorto tutti, gli avrei detto. va bene, Anto, sono arrivato, dai, ci sentiamo più tardi se coincide. Ciao. Ciao. La prossima, la prossima. Vabbè, bombolino. Eia, e becca, mi capo, vai giù a dare la pizza e noi la pizza non l'avevamo girata. E arrivate la pizza? E noi non l'avevamo girata, e te gli avrà pagato che ce ne andavano. Eia, eia. Gappa gappa, vabbè, no mio, sono entrato adesso qua, che era i fornelli, ho sentito anche a Franco, è sfuggita. Va bene, dai. Gappa mi, ora vai dentro come te l'ho fatta il Sarringo, ho capito dove sta il problema. Questa io la giusto. E tu un po' in cosa amara. Positivo, positivo. La stavo controllando, ora. Ce l'hai presente dove c'è quell'isolatore? Lì. Lì va la ciacca di vigna, capito? Non mantiene più. Io stavo pensando di fare il buco. Siccome è isolato, li mettevo nel bullone il nastro isolante fino a un certo punto, come dice qualcuno, poi io tipo isolante, li mettevo il bullone. Glielo passavo da parte in parte e già lì andava bene, non si muove più. Poi c'è l'altro pezzo dove c'è quel ribattino schifoso e gli mettevo un altro bulloncino passo passo. E qua dovrebbe essere a posto. Sono convinto che dopo riesco a metterlo a posto io, capito? Ma quando li metti tu perché la provo, poi te lo dico. Niente, ma più che l'altro isolante si stacca, devi cercare di fare una guarnizione di vigna in gomma. Ho un pezzettino di camera d'aria, le fai il buco, glielo metti che il bullone non tocchi al tubo, ma l'altro isolante poi si stacca e ti crea problemi, ti manda in corto l'antenna. Devi cercare di isolarla con qualcosa di gomma. Sì, perché quello lì è un isolatore, quello in plastica, giusto? Esatto, e quello è un isolatore, sì. Se tu buchi e le metti un bullone passante, te la manda in corto. Sì, sì, ci siamo, ok. Allora, io buco, li metto, nel bullone, li metto un qualcosa, li metto. Può essere anche vulcanizzante, può essere, dura il vulcanizzante. E poi dall'estremità non gli fa niente, cioè se tocca il bullone qua, cioè il bullone che si è isolato dove tocca questo, dove tocca, cioè poi si tocca qua la carrozzeria, non rimane nuda, capito? Se il bullone tocca là non gli fa niente, il bullone che dentro dove passa lo stilo centrale si è isolato. Si conferma, falle un giro di vulcanizzante in modo che diventi poi una guarnizione di gomma, perché il vulcanizzante poi strige e diventa una guarnizione di gomma, in modo che non tocchi all'isolatore e poi glielo strigi dall'altra parte, capito? Sì, li faccio proprio questo lavoro qua, lo rimetto a posto perché è un peccato, è un peccato, purtroppo succede così a queste antenne. La rimetto a posto bene, sono convinto che poi questa qua, rimessa a posto, sono convinto che ti dura una vita, a posto com'è. Sono delle antenne fragili, ho capito, ma ho detto di punti, gliel'ho aspettata proprio lì, dove c'è l'isolatore ed è ancora in chimica, a piccata, infatti ce l'avevamo promessi di metterla a posto, di scenderla, metterla a posto. Così entrava ogni tanto a farsi due chiacchiere anche lui, invece voi tra Covid e balle varie abbiamo mollato tutto, però insomma se si può fare a Moro già la mettiamo a posto con l'antenna, è stesso problema di quella lì, si è spezzata lì, bisogna forare, metterli un bulloncino passante isolato, in modo che non tocchi l'isolatore e poi riattaccarla. Sì, io le faccio proprio questo lavoro qua, le faccio, sì. La verità è che io sono convinto che poi la farò bene, l'emissione stazionaria questa antenna non ce n'è per nessuno. Diventa come questa che ci ho piazzata, gli altri si è a posto. diventa come questa che c'è piazzata, capito? Beh certo, poi se funziona bene la tiene di scorta, se funziona male pazienza, ma dovrebbe funzionare bene comunque, capito? No, vai tranquillo qua, che funziona bene, io la guardo bene, candura piazza, c'è canduri bungo tutta la situazione, ti faccio un bel isolamento, cioè gli faccio un bel lavoro, cavolo, io sono sicuro questa se gli fa un bel lavoro, e la metti bene a posto, questa ti dura, Hai fatto bene, volendo, fatto bene, perché tanto te ne accorgi, se non esci vuol dire che è in corto l'antenna, hai sbagliato lì a fare quella modifica sull'isolatore, ma l'hai fatto bene. Sono anche quei perni plastificati, filettati, mi pare che li venda, sono tipo barre filettate, proprio per isolare, di teflon, qualcosa del genere, di PVC, non lo so. Li ho visti da carbone, mi pare, ferramenta a carbone, ci sono anche al bricone. Ne metti quella lì con due rondelle di plastica, una parte e una all'altra, ne sei più tranquillo perché quello non tocca nessuna parte, anche se tocca è di plastica, capito? Sì, li faccio proprio così, li faccio e via. Maledizione, guarda, incredibile cosa gli è successo. E vabbè, la riparo e sono convinto che chissà una bomba pure. Ma non capisco perché la fabbrica non l'abbia fatta in grazia di Dio, Anto non c'è materiale, sono antenne deboli, non è che... Anche se funzionano bene, però materiale non ce n'è, quell'isolatore andava fatto diversamente, anche quell'aggancio lì per la regolazione delle stazionali, eccetera, andava fatto con un saliscendi, tipo una spirale, una sondina, qualcosa del genere, un pezzo di filo, capito? Se ti si spezza quel pezzo di filo, ti stazza nelle stazionali e all'impicco. Io già lo so già. Perché l'ho vista in quella di Mauro io, quando si è spezzata, l'abbiamo provata, mica c'è uno stazionale a 5, l'antenna non usciva. Comanda tutto quel pezzettino di plastica lì, potevano farla meglio perché, ripeto, un'antenna che funziona, che va bene, peccato. Ma già si può modificare, tu. Già si può modificare. Non credo che si può modificare. Si può modificare sì, perché questa mettendola a posto bene mi hanno detto che dura una vita poi. Infatti, è dura sì, ha voglia che dura. Già mangiato hai? Scappa, già mangiato, già mangiato. Voglia, già tutto fatto, mi muovo tutto a fuori, no. Si crea un casino, si crea. Tieni in ordine, che l'ordine, gappa, io mi ancora sto aspettando, altri 5 minuti poi vado a pappare. Caspitina, come gliela aspettata a quell'amico vostro, ma se ha pigliato una cosa diventa un bel foce. Gappa. Mi stavo parlando molto bene di questa Venom, dicono che è buona. Ne ho sentito parlare, Anto, ma non la conosco. Ho visto la foto che mi ha mandato Franco, però come vedi, secondo Grappiazzi hai sempre problema ai TVI, vabbè, non so. Io ti ripeto, la Mantova non la cambio con nessuno, ma corto andare in capo al mondo già la trovo, a parte che ne ho un'altra riscorta già pronta, ma questa che ho io è nuova, l'ho revisionata l'anno scorso d'estate, adesso poi quando la scendo, prima di montarla lo stesso, do una bella passata di lana d'acciaio, la pulisco bene, la spirale è nuova perché l'ho messa nuova, il connettore è nuovo, sempre col grasso, e quindi ha durato benissimo, era una pulita, i radiali sono in fibra nuovi, perché le avevo fatto il trattamento che mi aveva detto Vannino per la resina, e quindi sono nuovi, le viti sono in acciaio per togliere i radiali, tutti pieni di grasso, quindi ne escono alla grande, e poi la ripiazzo, quando sarà la ripiazzo, per il momento bene così. Mi hanno chiamato, tanto dai, ti lascio e vado a cenare. Se coincide ci sentiamo dopo, ok? Ok, cra, ci sentiamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Hola, hola.